GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le associazioni ambientaliste in difesa del tagliamento contro le grandi opere e il progetto di un nuovo ponte traversa a Dignano. A Udine gli avvocati di strada impegnati pro bono a difendere i senza tetto e i fissa dimora. A Spilimbergo si concludono le giornate della luce. Ieri è stato premiato il direttore della fotografia Carlos Alfonso Corral. Buongiorno dalla TGR del Friuli Venezia Giulia, in studio Lara Zani e Walter Scherch. Iniziamo con il meteo. Cielo sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 27 gradi, a Gorizia 31 gradi e 5 decimi, a Udine 30 gradi e 5 decimi, a Pordenone 29 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 28 gradi, a Forni di Sopra 26, a Piancavallo e Sappada 25, a Tarvisio 24 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 22 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 21 gradi, sulla costa 30 gradi a Lignano, 29 a Grado. Questo pomeriggio e sera su pianura e costa sereno e caldo con brezza, sui monti variabile. Di pomeriggio sulla zona montana sarà probabile qualche pioggia sparsa o qualche isolato rovescio, possibile anche qualche locale temporale sulle zone interne. Caldo un po' più afoso di pomeriggio in pianura. Quarta tappa oggi dell'esplorazione naturalistica del tagliamento organizzata da varie associazioni ambientaliste per discutere di grandi opere e del mito della sicurezza. Ascoltiamo la corrispondenza da Dignano. Quarta tappa tra Ragogna e Pinzano al Tagliamento per la campagna Free Tagliamento, che a partire dal mare ne sta risalendo il corso, promossa da una coalizione di associazioni per chiedere che il Re dei Fiumi Alpini continui a scorrere libero. Associazioni contrarie all'ipotesi di un nuovo ponte traversa a Dignano. A piedi e in canoa, momenti di musica e di approfondimento sui progetti avanzati negli anni per il contenimento delle piene, ma anche sulla storia del Comitato contro lo sbarramento di Pinzano, attivo dai primi anni 70. Per Alessandro Ciriani, membro del gruppo Acqua di Legambiente Regionale, è stato interessante ripercorrere la storia del Comitato perché è quello che 40-50 anni dopo si ripete puntualmente, ovvero mancanza di condivisione, di confronto, e che porterà probabilmente anche questo progetto a fare la fine che ha fatto lo sbarramento di Pinzano. Ad accompagnare il gruppo alcuni docenti universitari. La strategia, sottolineano, è di ridurre le portate della piena con casse di espansione in zone agricole senza opere trasversali in alveo, assieme a misure per ridurre la vulnerabilità delle aree abitate a rischio. Ieri a Spilimbergo un convegno internazionale sul tema. Da anni Legambiente chiede che uno dei fiumi più studiati d'Europa sia produttore di conoscenze e relazioni sul territorio con la creazione di un centro di ricerca e documentazione. Per Sandro Cagnelutti, presidente di Legambiente FVG, il mondo della ricerca molto spesso è invisibile anche alle stesse istituzioni scientifiche. Occorre un centro che faccia da riferimento e anche da raccordo tra le istituzioni, le comunità locali e il mondo della ricerca, ma anche per quelle persone a piedi che nei cammini vogliono capire di più di questo straordinario fiume. Pinzano al Tagliamento, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà presentato oggi pomeriggio alle 16 a Udine il nuovo servizio locale Avvocato di Strada per la tutela legale delle persone senza dimora. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale Avvocato di Strada in collaborazione con il Comitato di Udine della Croce Rossa. Il coordinatore di Trieste dell'associazione, Raffaele Leo, ci ha spiegato di che cosa si tratta. Lo Spaccale Avvocato di Strada è una realtà territoriale che è nata appunto nell'ambito di questa organizzazione nazionale, che è una ONLUS, l'Associazione Nazionale Avvocati di Strada, nata a Bologna nel 2001 e che poi si è diffuso su tutto il territorio italiano. Uno dei primi sportelli è stato anche quello di Trieste, che è nato nel 2006 presso la comunità di San Martino al Campo. E a Udine apriremo un secondo sportello in regione, appunto quello di Udine, e presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Pastenco 31. Esattamente sarà il 61esimo sportello territoriale che apriamo. A chi è rivolto e per che allora, cosa? Noi siamo una rete di volontari che facciamo assistenza legale gratuita ai soggetti senza fissa dimora. Riceviamo le persone che hanno bisogno, che chiedono di contattarci nelle varie sedi appunto operative che abbiamo aperto in tutta Italia e lì esercitiamo l'attività di un vero e proprio studio legale. Per che cosa vengono da voi? Per che tipo di problemi? I problemi sono svariati, diciamo quello più frequente, quello che è un po' il problema principale, che è stata un po' la causa iniziale che ha fatto nascere questa idea e poi l'ha resa operativa su tutto il territorio nazionale, è stato un po' il problema del diritto alla residenza. E infatti i primi approcci si sono verificati per venire in soccorso dei soggetti che avendo perso un domicilio, avendo perso la residenza, si trovano praticamente in strada, non solo fisicamente ma anche giuridicamente, perché non avendo più una residenza non potevano esercitare tutti quei diritti che sono connessi strettamente al diritto di residenza, come per esempio l'assistenza sanitaria, l'assistenza per un recapito per avere il diritto per accedere alla pensione e tutti i servizi che sono connessi alla residenza, come anche per esempio accedere ai servizi sociali e anche all'edilizia residenziale pubblica. Passiamo alla cultura. Il direttore della fotografia, Carlos Alfonso Corral, per il film I Dannati di Roberto Minervini, il vincitore del Quarzo di Spilimbergo Light Award 2025, il premio che il festival Le Giornate della Luce di Spilimbergo assegna da 11 anni alla migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione. Ieri sera al Cinema Miotto la cerimonia di premiazione condotta da Maurizio Mannoni con ospite d'onore l'attrice Barbara Bobulova, che ha reso omaggio al ricordo della giovane Michela Baldo scomparsa nel 2016 vittima di femminicidio. A ideare il festival e a dirigerlo insieme a Donato Guerra e Gloria De Antoni, a cui abbiamo chiesto come si svilupperà in futuro questa manifestazione. Manterremo questa formula che abbiamo un po' conquistato nel corso di questi anni. C'è stata una grande partecipazione del pubblico che mano a mano si è, non dico raddoppiata, ma quasi, e soprattutto la nostra grande soddisfazione è stata quella degli studenti, di avere questi studenti che vengono dall'Italia e da molte parti d'Europa, che il loro entusiasmo ci ha contagiati, hanno lavorato incessantemente, ma si sono anche un po' divertiti. Perché questa attenzione ai giovani? Che i ragazzi si confrontino, mostrino i loro lavori, discutano tra di loro, è fondamentale per la loro formazione, di uscire dalle loro scuole per incontrare altri studenti, altre scuole di altre parti d'Italia ed Europa. Il festival si conclude oggi alle 18 al Cinema Miotto, la masterclass con Saverio Costanzo che introdurrà il film Finalmente l'alba, che sarà poi proiettato alle 21. Nel pomeriggio invece alle 15 il Cinema Miotto ospita il film Ciao bambino di Edgardo Pistone con il premio dell'esordiente a Rosario Cammarotta. Chiudiamo con alcuni appuntamenti. Festa del vino e del pesce a Monfalcone con l'apertura degli stand gastronomici anche in orario di pranzo. Si conclude oggi la terza edizione del Festival Via dei Libri di Tolmezzo. L'ultimo appuntamento sarà quello con lo storico Carlo Ginzburg, che parlerà del suo saggio La lettera uccide al Cinema David alle 19.30. Andrea Cortellessa presenta il suo libro Forse che sì, Joyce fra Pascoli e Gadda a Trieste all'Antico Caffè San Marco alle 19.30. Nell'ambito della mostra Open proseguono i laboratori di disegno dal vero con lo stage con Paolo Cervi Kervischer al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste alle 16. Il Festival di Teatri dell'Anima propone Mi abbatto e sono felice di e con Daniele Ronco a Talmassonsa alle risorgive di Flamro alle 21. A Spilimbergo lo sport contro la violenza in una giornata di rumore, competizioni nelle varie strutture sportive della città che si concluderanno con la premiazione alle 18.30 allo stadio Giacomello. Per la kermesse Palchi nei Parchi, concerto a ingresso libero dei Birkin Trip Music and Song from Ireland alle 18.30 al Parco Brolo di San Quirino. In attesa del festival Piano City Pordenone, appuntamento con l'anteprima Alpe Adria Concerto, protagonisti 6 allievi selezionati che hanno partecipato alla Piano Concerto Performing Masterclass, musiche di Grieg e Rachmaninoff al Capitol di Pordenone alle 21. Per Udine Estate, festa musicale con tanti musicisti del Friuli Venezia Giulia e tanti ospiti speciali per celebrare i 20 anni di attività della band friulana Playa Desnuda. Al Castello, con apertura porte alle 19 e inizio concerto alle 20. Siamo arrivati alla fine di questo breve notiziario. Il prossimo appuntamento con la TGR del Friuli Venezia Giulia è alle 14 con il nostro telegiornale sulla terza rete. Poi seguirà alle 15 il radiogiornale pomeridiano. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. La parte tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e da Carlo Morello. In studio Lara Zani e Walter Scherk. Vi auguriamo una buona continuazione della giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.